Capitolo quarto de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo quarto. Fu così. Un giorno, a caccia, mi fermai stranamente impressionato innanzi a un pagliaio nano e panciuto che aveva un pentolino in cima allo stollo. «Ti conosco», gli dicevo, «ti conosco!» Poi a un tratto esclamai, «To, batta malagna!» Presi un tridente che era lì per terra e glielo infissi nel pancione con tanta voluttà che il pentolino in cima allo stollo per poco non cadde. Ed ecco batta malagna, quando sudato e sbuffante, portava il cappello sulle 23. Scivolava tutto. Gli scivolavano nel lungo faccione di qua e di là le sopracciglia e gli occhi, gli scivolava il naso sui baffi melensi e sul pizzo, gli scivolavano dall'attaccatura del collo le spalle, gli scivolava il pancione languido, enorme, quasi fino a terra, perché, data l'imminenza di esso sulle gambette tozze, il sarto, per vestirgli quelle gambette, era costretto a tagliargli quanto mai agiati i calzoni, così che da lontano pareva che indossasse invece, bassa bassa, una veste, e che la pancia gli arrivasse fino a terra. Ora, come con una faccia e con un corpo così fatti, Malagna potesse esser tanto ladro, io non so. Anche i ladri, m'immagino, debbono avere una certa impostatura che gli mi pareva non avesse. Andava piano con quella sua pancia pendente, sempre con le mani dietro la schiena, e tirava fuori con tanta fatica quella sua voce molle, miagolante. Mi piacerebbe sapere com'egli li ragionasse con la sua propria coscienza i furti che di continuo perpetrava a nostro danno. Non avendone, come ho detto, alcun bisogno, una ragione a se stesso, una scusa, doveva pur darla. Forse, io dico, rubava per distrarsi in qualche modo, pover'uomo. Doveva essere infatti entro di sé tremendamente afflitto da una di quelle mogli che si fanno rispettare. Aveva commesso l'errore di scegliersi la moglie d'un paraggio superiore al suo, che era molto basso. Or questa donna, sposata a un uomo di condizione pari alla sua, non sarebbe stata forse così fastidiosa com'era con lui, a cui, naturalmente, doveva dimostrare a ogni minima occasione che ella nasceva bene e che a casa sua si faceva così e così, come diceva lei, per parere un signore anche lui, ma gli costava tanto. Sudava sempre, sudava. Per giunta la signora Guendalina, poco dopo il matrimonio, si ammalò d'un male di cui non poté più guarire, giacché per guarirne avrebbe dovuto fare un sacrificio superiore alle sue forze, privarsi niente meno di certi pasticcini coi tartufi che le piacevano tanto e di simili altre golerie e anche, anzi soprattutto, del vino. Non che ne bevesse molto, sfido, nasceva bene, ma non avrebbe dovuto berne neppure un dito, ecco. Io e Berto, giovinetti, eravamo qualche volta invitati a pranzo dal Malagna. Era uno spasso sentirgli fare, coi dovuti riguardi, una predica alla moglie sulla continenza, mentre lui mangiava, divorava con tanta voluttà i cibi più succulenti. «Non ammetto», diceva, «che per il momentaneo piacere che prova la gola al passaggio d'un boccone, per esempio come questo, e giù il boccone, si debba poi star male un'intera giornata. Che sugo c'è? Io son certo che me ne sentirei dopo profondamente avvilito. Rosina!» chiamava la serva. «Dammene ancora un po'. Buona questa salsa maionese!» «Maialese!» scattava allora la moglie inviperita. «Basta così. Guarda, il signore dovrebbe farti provare che cosa vuol dire star male di stomaco. Impareresti ad aver considerazione per tua moglie!» «Come, Guendalina? Non ne ho!» esclamava Malagna mentre si versava un po' di vino. La moglie, per tutta risposta, si levava da sedere, gli toglieva dalle mani il bicchiere e andava a buttare il vino dalla finestra. «E perché?» gemeva quello restando. E la moglie: «Perché per me è veleno! Me ne vedi versare un dito nel bicchiere? Toglimelo e va a buttarlo dalla finestra, come ho fatto io, capisci?» Malagna guardava, mortificato, sorridente, un po' Berto, un po' me, un po' la finestra, un po' il bicchiere, poi diceva: «Oddio, e che sei, forse una bambina? Io con la violenza? Ma no, cara, tu, da te, con la ragione, dovresti importelo il freno. E come? Gridava la moglie, con la tentazione sotto gli occhi, vedendo te che te ne bevi tanto e te l'assapori e te lo guardi contro lume per farmi dispetto. Va là, ti dico, se fossi un altro marito per non farmi soffrire. Ebbene, Malagna arrivò fino a questo. Non bevve più vino per dare esempio di continenza alla moglie e per non farla soffrire. Poi rubava e sfido, qualche cosa bisognava pur che facesse. Se non che, poco dopo, venne a sapere che la signora Gwendalina se lo beveva di nascosto lei il vino, come se per non farle male potesse bastare che il marito non se ne accorgesse. E allora anche lui, Malagna, riprese a bere, ma fuor di casa per non mortificare la moglie. Seguitò tuttavia a rubare, è vero, ma io so che egli desiderava con tutto il cuore dalla moglie un certo compenso alle afflizioni senza fine che gli procurava. Desiderava cioè che ella un bel giorno si fosse risoluta a mettergli al mondo un figliuolo, ecco. Il furto allora avrebbe avuto uno scopo, una scusa, che non si fa per il bene dei figliuoli. La moglie però deperiva di giorno in giorno e Malagna non osava neppure di esprimerle questo suo ardentissimo desiderio. Forse ella era anche sterile di natura. Bisognava aver tanti riguardi per quel suo male, che se poi fosse morta di parto, Dio liberi. E poi c'era anche il rischio che non portasse a compimento il figliuolo. Così si rassegnava. Era sincero? Non lo dimostrò abbastanza alla morte della signora Gwendalina. La pianse, la pianse molto, e sempre la ricordò con una devozione così rispettosa che al posto di lei non volle più mettere un'altra signora, che, e lo avrebbe potuto bene, ricco come già s'era fatto. Ma prese la figlia d'un fattore di campagna, sana, florida, robusta e allegra. E così, unicamente perché non potesse esser dubbio che ne avrebbe avuto la prole desiderata. Se si affrettò un po' troppo, via, bisogna pur considerare che non era più un giovanotto e tempo da perdere non ne aveva. Oliva, figlia di Pietro Salvoni, nostro fattore a Due Riviere, io la conoscevo bene da ragazza. Per cagion sua, quante speranze non feci concepire alla mamma, che io stessi cioè per metter senno e prender gusto alla campagna. Non capiva più nei panni dalla consolazione, poveretta, ma un giorno la terribile zia scolastica le aprì gli occhi. «E non vedi, sciocca, che va sempre a Due Riviere?» «Sì, per il raccolto delle olive.» «D'un'oliva, d'un'oliva, d'un'oliva sola, bietolona!» La mamma allora mi fece una ramanzina coi fiocchi, che mi guardassi bene dal commettere il peccato mortale d'indurre in tentazione e di perdere per sempre una povera ragazza, eccetera, eccetera. Ma non c'era pericolo, Oliva era onesta, di una onestà incrollabile, perché radicata nella coscienza del male che si sarebbe fatto cedendo. Questa coscienza, appunto, le toglieva tutte quelle insulse timidezze dei finti pudori e la rendeva ardita e sciolta. Come rideva! Due ciliegie le labbra, e che denti! Ma da quelle labbra neppure un bacio, dai denti sì, qualche morso, per castigo, quand'io la afferravo per le braccia e non volevo lasciarla se prima non le allungavo un bacio almeno sui capelli. Nient'altro. Ora, così bella, così giovane e fresca, moglie di Batta Malagna. Ma chi ha il coraggio di voltar le spalle a certe fortune? Eppure Oliva sapeva bene come il Malagna fosse diventato ricco. Me ne diceva tanto male un giorno, poi per questa ricchezza appunto lo sposò. Passa intanto un anno dalle nozze, ne passano due e niente figliuoli. Malagna, entrato da tanto tempo nella convinzione che non ne aveva avuti dalla prima moglie solo per la sterilità o per la infermità continua di questa, non concepiva ora neppure lontanamente il sospetto che potesse dipendere da lui. E cominciò a mostrare il broncio a Oliva. Niente? Niente. Aspettò ancora un anno, il terzo, invano. Allora prese a rimbrottarla apertamente. e infine dopo un altro anno, ormai disperato per sempre, al colmo dell'esasperazione si mise a malmenarla senza alcun ritegno, gridandole in faccia che con quella apparente floridezza ella lo aveva ingannato, ingannato, ingannato, che soltanto per aver da lei un figliuolo egli l'aveva innalzata fino a quel posto, già tenuto da una signora, da una vera signora, alla cui memoria, se non fosse stato per questo, non avrebbe fatto mai un tale affronto. La povera Oliva non rispondeva, non sapeva che dire. Veniva spesso a casa nostra per sfogarsi con mia madre, che la confortava con buone parole a sperare ancora, poiché infine era giovane, tanto giovane. 20 anni? 22. E dunque, via, s'era dato più d'un caso d'aver figliuoli anche dopo 10, anche dopo 15 anni dal giorno delle nozze. 15? Ma è lui! Lui era già vecchio e se... A Oliva era nato fin dal primo anno il sospetto che via, tra lui e lei, come dire, la mancanza potesse più esser di lui che sua, nonostante che egli si ostinasse a dir di no, ma se ne poteva far la prova. Oliva, sposando, aveva giurato a se stessa di mantenersi onesta e non voleva neanche per riacquistar la pace venir meno al giuramento. Come le so io queste cose? Oh bella, come le so! Ho pur detto che ella veniva a sfogarsi a casa nostra. Ho detto che la conoscevo da ragazza. Ora la vedevo piangere per l'indegno modo d'agire e la stupida e provocante presunzione di quel laido vecchiaccio e... Debbo proprio dir tutto. Del resto fu no. E dunque, basta. Me ne consolai presto. Avevo allora, o credevo d'avere che lo stesso, tante cose per il capo. Avevo anche quattrini che, oltre al resto, forniscono pure certe idee le quali senza di essi non si avrebbero. Mi aiutava però maledettamente a spenderli Gerolamo II Pomino, che non ne era mai provvisto abbastanza per la saggia parsimonia paterna. Mino era come l'ombra nostra, a turno mia e di Berto, e cangiava con meravigliosa facoltà scimmiesca, secondo che praticava con Berto o con me. Quando s'appiccicava a Berto, diventava subito un damerino, e il padre allora, che aveva anche lui velleità d'eleganza, apriva un po' la bocca al sacchetto. Ma con Berto ci durava poco. Nel vedersi imitato finanche nel modo di camminare, mio fratello perdeva subito la pazienza, forse per paura del ridicolo, e lo bistrattava fino a cavarselo di torno. Nino allora tornava ad appiccicarsi a me e il padre a stringer la bocca al sacchetto. Io avevo con lui più pazienza perché volentieri pigliavo a godermelo. Poi me ne pentivo. Riconoscevo d'aver ceduto per causa sua in qualche impresa o sforzato la mia natura o esagerato la dimostrazione dei miei sentimenti per il gusto di stordirlo o di cacciarlo in qualche impiccio di cui naturalmente soffrivo anch'io le conseguenze. Ora Mino un giorno a caccia, a proposito del Malagna di cui gli avevo raccontato le prodezze con la moglie, mi disse che aveva adocchiato una ragazza, figlia d'una cugina del Malagna, appunto, per la quale avrebbe commesso volentieri qualche grossa bestialità. Ne era capace, tanto più che la ragazza non pareva restia, ma egli non aveva avuto modo finora neppur di parlarle. «Non ne avrai avuto il coraggio, va là», dissi io ridendo. Mino negò, ma arrossì troppo negando. «Ho parlato però con la serva», s'affrettò a soggiungermi. E n'ho saputo di belle, sai, m'ha detto che il tuo malanno lo han lì sempre per casa e che così all'aria le sembra che mediti qualche brutto tiro, d'accordo con la cugina, che è una vecchia strega. Che tiro? Ma dice che va lì a piangere la sua sciagura di non aver figliuoli. La vecchia, dura, arcigna, gli risponde che gli sta bene. Pare che essa, alla morte della prima moglie del Malagna, si fosse messo in capo di fargli sposare la propria figliuola e si fosse adoperata in tutti i modi per riuscirvi, che poi, disillusa, n'abbia detto di tutti i colori all'indirizzo di quel bestione, nemico dei parenti, traditore del proprio sangue, eccetera, eccetera, e che se la sia presa anche con la figliuola, che non aveva saputo attirare a sé lo zio. Ora, infine, che il vecchio si dimostra tanto pentito di non aver fatto lieta la nipote, chissà qual'altra perfida idea quella strega può aver concepito. Mi turai gli orecchi con le mani, gridando a Mino: «Sta zitto!» Apparentemente no, ma in fondo ero pur tanto ingenuo in quel tempo. Tuttavia, avendo notizia delle scene che erano avvenute e avvenivano in casa Malagna, pensai che il sospetto di quella serva potesse in qualche modo esser fondato e volli tentare, per il bene d'Oliva, se mi fosse riuscito ad appurare qualche cosa. Mi feci dare da Mino il recapito di quella strega. Mino mi si raccomandò per la ragazza. «Non dubitare», gli risposi, «la lascio a te, che diamine!» E il giorno dopo, con la scusa d'una cambiale di cui per combinazione quella mattina stessa avevo saputo dalla mamma la scadenza in giornata, andai a scovar Malagna in casa della vedova Pescatore. Avevo corso apposta e mi precipitai dentro tutto accaldato e in sudore. «Malagna, la cambiale!» Se già non avessi saputo che egli non aveva la coscienza pulita, non me ne sarei accorto senza dubbio quel giorno, vedendolo balzare in piedi, pallido, scontraffatto, balbettando: «Che cambiale? La cambiale così e così, che scade oggi! Mi manda la mamma, che n'è tanto impensierita!» Batta Malagna cadde a sedere, esalando in un «ah» interminabile tutto lo spavento che per un istante lo aveva oppresso. «Ma fatto! Tutto fatto! Per Bacco, che soprassalto! L'ho rinnovata, a 3 mesi! Pagando i frutti, s'intende! Ti sei davvero fatta codesta corsa per così poco!» E rise, rise, facendo sobbalzare il pancione. Mi invitò a sedere, mi presentò alle donne. «Mattia Pascal, Marianna Dondi, vedova Pescatore, mia cugina, Romilda, mia nipote!» Volle che per rassettarmi dalla corsa bevessi qualcosa. «Romilda, se non ti dispiace», come se fosse a casa sua. Romilda si alzò, guardando la madre per consigliarsi con gli occhi di lei, e poco dopo, nonostante le mie proteste, tornò con un piccolo vassoio su cui era un bicchiere e una bottiglia di vermouth. Subito, a quella vista, la madre si alzò indispettita, dicendo alla figlia: ma no, da qua!» Le tolse il vassoio dalle mani e uscì per rientrare poco dopo, con un altro vassoio di lacca, nuovo fiammante, che reggeva una magnifica rosoliera. Un elefante inargentato con una botte di vetro sul groppone e tanti bicchierini appesi tutto intorno che tintinnavano. Avrei preferito il vermouth. Bevvi il rosolio. Ne bevvero anche il Malagna e la madre. Romilda no. Mi trattenni poco quella prima volta per avere una scusa a tornare. Dissi che mi premeva di rassicurar la mamma intorno a quella cambiale, che sarei venuto di lì a qualche giorno a goder con più agio della compagnia delle signore. Non mi parve dall'aria con cui mi salutò che Marianna Dondi, vedova Pescatore, accogliesse con molto piacere l'annunzio d'una mia seconda visita. Mi porse appena la mano. Gelida mano, secca, nodosa, gialliccia, e abbassò gli occhi e strinse le labbra. Mi compensò la figlia con un simpatico sorriso che prometteva cordiale accoglienza e con uno sguardo dolce mesto a un tempo di quegli occhi che mi fecero fin dal primo vederla una così forte impressione. Occhi d'uno strano color verde, cupi, intensi, ombreggiati da lunghissime ciglia. Occhi notturni, tra due bande di capelli neri come l'ebano, ondulati, che le scendevano sulla fronte e sulle tempie, quasi a far meglio risaltare la viva bianchezza della pelle. La casa era modesta, ma già tra i vecchi mobili si notavano parecchi nuovi venuti, pretensiosi e goffi nell'ostentazione della loro novità troppo appariscente. Due grandi lumi di maiolica, per esempio, ancora intatti dai globi di vetro smerigliato di strana foggia, su un'umilissima mensola dal piano di marmo ingiallito, che reggeva uno specchio tetro in una cornice tonda qua e là scrostata, la quale pareva si aprisse nella stanza come uno sbadiglio d'affamato. C'era poi, davanti al divanuccio sgangherato, un tavolinetto con le quattro zampe dorate e il piano di porcellana dipinto di vivacissimi colori, poi uno stipetto a muro di lacca giapponese, eccetera, eccetera. E su questi oggetti nuovi, Gli occhi di Malagna si fermavano con evidente compiacenza, come già su la rosoliera recata in trionfo dalla cugina vedova pescatore. Le pareti della stanza eran quasi tutte tappezzate di vecchie e non brutte stampe, di cui il Malagna volle farmi ammirare qualcuna, dicendomi che erano opera di Francesco Antonio Pescatore, suo cugino, valentissimo incisore, morto pazzo a Torino, aggiunse piano, del quale volle anche mostrarmi il ritratto. Eseguito con le proprie mani da sé davanti allo specchio. Ora io, guardando Romilda e poi la madre, avevo poc'anzi pensato, somiglierà al padre. Adesso, di fronte al ritratto di questo, non sapevo più che pensare. Non voglio arrischiare supposizioni oltraggiose. Stimo, è vero, Marianna Dondi, vedova pescatore, capace di tutto. Ma come immaginare un uomo, e per giunta bello, capace d'essersi innamorato di lei? Tranne che non fosse stato un pazzo più pazzo del marito. Riferii a Mino le impressioni di quella prima visita. Gli parlai di Romilda con tal calore d'ammirazione che egli subito se ne accese, felicissimo che anche a me fosse tanto piaciuta ed aver la mia approvazione. Io allora gli domandai che intenzioni avesse. La madre sì, aveva tutta l'aria d'essere una strega, ma la figliuola, ci avrei giurato, era onesta. Nessun dubbio sulle mire infami del Malagna. Bisognava dunque, a ogni costo, al più presto, salvare la ragazza. «E come?» mi domandò Pomino, che pendeva affascinato dalle mie labbra. «Come?» «Vedremo. Bisognerà prima di tutto accertarsi di tante cose. Andare in fondo, studiar bene, capirai. Non si può mica prendere una risoluzione così, su due piedi. Lascia fare a me, t'aiuterò. Codesta avventura mi piace.» «Ma...» obiettò allora Pomino timidamente, cominciando a sentirsi sulle spine nel vedermi così infatuato. «Tu diresti forse sposarla?» «Non dico nulla io per adesso. Hai paura, forse?» «No, perché?» «Perché ti vedo correre troppo, piano, piano, e rifletti. Se veniamo a conoscere che ella è davvero come dovrebbe essere, buona, saggia, virtuosa, bella è, non c'è dubbio, e ti piace, non è vero? Oh, poniamo ora che veramente ella sia esposta per la nequizia della madre e di quell'altra canaglia a un pericolo gravissimo, a uno scempio, a un mercato infame. Proveresti ritegno innanzi a un atto meritorio, a un'opera santa di salvazione?» «Io no, no», fece Pomino, «ma mio padre sopporrebbe? Per qual ragione? Per la dote, è vero? Non per altro? Perché ella, sai, è figlia d'un artista, d'un valentissimo incisore, morto, sì, morto bene, insomma, a Torino. Ma tuo padre è ricco e non ha che te solo, ti può dunque contentare senza badare alla dote. Che se poi con le buone non riesci a vincerlo, niente paura, un bel volo dal nido e s'aggiusta ogni cosa. Pomino, hai il cuore di stoppa!» Pomino rise e io allora gli dimostrai 4 e 4/8 che egli era nato marito come si nasce poeta. Gli descrissi a vivi colori, seducentissimi, la felicità della vita coniugale con la sua Romilda, l'affetto, le cure, la gratitudine che ella avrebbe avuto per lui, suo salvatore. E per concludere... «Tu, ora, gli dissi, devi trovare il modo e la maniera di farti notare da lei e di parlarle o di scriverle. Vedi, in questo momento forse una tua lettera potrebbe essere per lei, assediata da quel ragno, un'ancora di salvezza. Io intanto frequenterò la casa, starò a vedere, cercherò di cogliere l'occasione di presentarti, siamo intesi?» «Intesi!» «Perché mostravo tanta smania di maritar Romilda?» «Per niente, ripeto. Per il gusto di stordire Pomino. Parlavo e parlavo e tutte le difficoltà sparivano. Ero impetuoso e prendevo tutto alla leggera. Forse per questo allora le donne mi amavano, nonostante quel mio occhio un po' sbalestrato e il mio corpo da pezzo da catasta. Questa volta però, debbo dirlo, la mia foga proveniva anche dal desiderio di sfondare la trista ragna ordita da quell'aido vecchio e farlo restare con un palmo di naso, dal pensiero della povera Oliva e anche, perché no, dalla speranza di fare un bene a quella ragazza che veramente mi aveva fatto una grande impressione. Che colpa ho io se Pomino eseguì con troppa timidezza le mie prescrizioni? Che colpa ho io se Romilda, invece di innamorarsi di Pomino, si innamorò di me? che pur le parlavo sempre di lui. Che colpa, infine, se la perfidia di Marianna Dondi, vedova pescatore, giunse fino a farmi credere ch'io con la mia arte in poco tempo fossi riuscito a vincere la diffidenza di lei e a fare anche un miracolo, quello di farla ridere più d'una volta con le mie uscite balzane. Le vidi a poco ceder le armi. Mi vidi accolto bene. Pensai che con un giovanotto lì per casa, ricco, io mi credevo ancora ricco, e che dava non dubbi segni di essere innamorato della figlia, ella avesse finalmente smesso la sua iniqua idea, seppure le fosse mai passata per il capo. Ecco, ero giunto finalmente a dubitarne. Avrei dovuto, è vero, badare al fatto che non m'era più avvenuto d'incontrarmi col Malagna in casa di lei, e che poteva non esser senza ragione che ella mi ricevesse soltanto di mattina. Ma chi ci badava? Era del resto naturale, poiché io, ogni volta, per aver maggior libertà, proponevo gite in campagna che si fanno più volentieri di mattina. Mi ero poi innamorato anch'io di Romilda, pur seguitando sempre a parlarle dell'amore di Pomino. Innamorato come un matto di quegli occhi belli, di quel nasino, di quella bocca, di tutto. Finanche d'un piccolo porro ch'ella aveva sulla nuca, ma finanche d'una cicatrice quasi invisibile in una mano che le baciavo e le baciavo e le baciavo, per conto di Pomino, perdutamente. Eppure, forse, non sarebbe accaduto nulla di grave se una mattina Romilda, eravamo alla stia e avevamo lasciato la madre ad ammirare il molino, tutta un tratto, smettendo lo scherzo troppo ormai prolungato sul suo timido amante lontano, non avesse avuto un'improvvisa convulsione di pianto e non m'avesse buttato le braccia al collo, scongiurandomi tutta tremante che avessi pietà di lei, ma la togliessi comunque, purché via, lontano, lontano dalla sua casa, lontano da quella sua madraccia, da tutti, subito, subito, subito. Lontano? Come potevo così, subito, condurla via lontano? Dopo, sì, per parecchi giorni, ancora ebbro di lei, cercai il modo risoluto a tutto, onestamente. E già cominciavo a predisporre mia madre alla notizia del mio prossimo matrimonio, ormai inevitabile per debito di coscienza, quando, senza saper perché, mi vidi arrivare una lettera secca secca di Romilda, che mi diceva di non occuparmi più di lei in alcun modo, e di non recarmi mai più in casa sua, considerando come finita per sempre la nostra relazione. Ah sì? E come? Che era avvenuto? Lo stesso giorno Oliva corse piangendo in casa nostra a annunziare alla mamma che ella era la donna più infelice di questo mondo, che la pace della sua casa era per sempre distrutta. Il suo uomo era riuscito a far la prova che non mancava per lui aver figliuoli. Era venuto ad annunziarglielo, trionfante. Ero presente a questa scena. Come abbia fatto a frenarmi lì per lì, non so. Mi trattenne il rispetto per la mamma. Soffocato dall'ira, dalla nausea, scappai a chiudermi in camera e solo, con le mani tra i capelli, cominciai a domandarmi come mai Romilda, dopo quanto era avvenuto fra noi, si fosse potuta prestare a tanta ignominia. Ah, degna figlia della madre! Non il vecchio soltanto avevano entrambe vilissimamente ingannato, ma anche me! Anche me! E come la madre... Anche lei, dunque, si era servita di me vituperosamente per il suo fine infame, per la sua ladra voglia. E quella povera Oliva, intanto, rovinata, rovinata. Prima di sera uscii, ancor tutto fremente, diretto alla casa d'Oliva. Avevo con me in tasca la lettera di Romilda. Oliva, in lagrime, raccoglieva le sue robe. Voleva tornare dal suo babbo, a cui finora, per prudenza, non aveva fatto neppure un cenno di quanto le era toccato a soffrire. «Ma ormai che sto più a farci», mi disse. «È finita. Se si fosse almeno messo con qualche altra, forse...» «Ah, tu sai dunque?» le domandai. «Con chi s'è messo?» Chinò più volte il capo tra i singhiozzi e si nascose la faccia tra le mani. «Una ragazza!» esclamò poi levando le braccia. «E la madre! La madre! La madre! D'accordo, capisci? La propria madre!» «Lo dici a me», feci io. «Tieni, leggi». E le porsi la lettera. Oliva la guardò come stordita. La prese e mi domandò «Che vuol dire?» Sapeva leggere appena. Con lo sguardo mi chiese se fosse proprio necessario che ella facesse quello sforzo in quel momento. «Leggi», insistetti io. E allora ella si asciugò gli occhi, spiegò il foglio e si mise a interpretar la scrittura, pian piano, sillabando. Dopo le prime parole corse con gli occhi alla firma e mi guardò sgranando gli occhi. «Tu!» «Da quale?» dissi. «E te la leggo io, per intero». Ma ella si strinse la carta contro il seno. «No!» gridò. «Non te la do più! Questa ora mi serve!» «E a che potrebbe servirti?» le domandai sorridendo amaramente. «Vorresti mostrargliela? Ma in tutta codesta lettera non c'è una parola per cui tuo marito potrebbe non credere più a ciò che egli invece è felicissimo di credere. Te l'hanno accalappiato bene, va là!» «Ah, è vero», gemette Oliva. «Mi è venuto con le mani in faccia, gridandomi che mi fossi guardata bene dal mettere in dubbio l'onorabilità di sua nipote!» «E dunque», dissi io ridendo acre, «vedi, tu non puoi più ottener nulla negando. Te ne devi guardar bene. Devi anzi dirgli di sì, che è vero, verissimo, che egli può aver figliuoli. Comprendi?» Ora, perché mai, circa un mese dopo, Malagna picchiò furibondo la moglie e, con la schiuma ancora alla bocca, si precipitò in casa mia, gridando che esigeva una riparazione perché io gli avevo disonorata, rovinata una nipote, una povera orfana. Soggiunse che per non fare uno scandalo egli avrebbe voluto tacere. Per pietà di quella poveretta, non avendo egli figliuoli, aveva anzi risoluto di tenersi quella creatura quando sarebbe nata come sua. Ma ora che Dio finalmente gli aveva voluto dare la consolazione d'avere un figliuolo legittimo, lui dalla propria moglie, non poteva più in coscienza fare anche da padre a quell'altro che sarebbe nato da sua nipote. «Mattia, provveda! Mattia, ripari!» concluse, congestionato dal furore. «E subito! Mi si obbedisca subito! E non mi si costringa a dire di più o a fare qualche sproposito!» Ragioniamo un po', arrivati a questo punto. Io n'ho viste di tutti i colori. Passare anche per imbecille o per peggio non sarebbe in fondo per me un gran guaio. Già, ripeto, son come fuori della vita e non mi importa più di nulla. Se, dunque, arrivato a questo punto, voglio ragionare, è soltanto per la logica. Mi sembra evidente che Romilda non ha dovuto far nulla di male, almeno per indurre in inganno lo zio. Altrimenti perché Malagna avrebbe subito a suon di busse rinfacciato alla moglie il tradimento e incolpato me presso mia madre d'aver recato oltraggio alla nipote? Romilda infatti sostiene che poco dopo quella nostra gita alla stia, sua madre, avendo ricevuto da lei la confessione dell'amore che ormai la legava a me indissolubilmente, montata su tutte le furie, le aveva gridato in faccia che mai e poi mai avrebbe acconsentito a farle sposare uno scioperato già quasi all'orlo del precipizio. Ora, poiché da sé ella aveva recato a se stessa il peggior male che a una fanciulla possa capitare, non restava più a lei, madre previdente, che di trarre da questo male il miglior partito. Quale fosse, era facile intendere. Venuto allora solita il Malagna, ella andò via con una scusa e la lasciò sola con lo zio. E allora lei, Romilda, piangendo, dice, a calde lagrime, si gittò ai piedi di lui, gli fece intendere la sua sciagura e ciò che la madre avrebbe preteso da lei. Lo pregò d'interporsi, d'indurre la madre a più onesti consigli, poiché ella era già d'un altro a cui voleva serbarsi fedele. Malagna s'intenerì, ma fino a un certo segno. Le disse che ella era ancor minorenne e perciò sotto la potestà della madre, la quale, volendo, avrebbe potuto anche agire contro di me giudiziariamente, che anche lui, in coscienza, non avrebbe saputo approvare un matrimonio con un discolo della mia forza, sciupone e senza cervello, e che non avrebbe potuto perciò consigliarlo alla madre. Le disse che al giusto e naturale sdegno materno bisognava che lei sacrificasse pure qualche cosa, che sarebbe poi stata del resto la sua fortuna, e concluse che egli non avrebbe potuto infine far altro che provvedere, a patto però che si fosse serbato con tutto il massimo segreto, provvedere al nascituro, fargli da padre, ecco, giacché egli non aveva figliuoli e ne desiderava tanto e da tanto tempo uno. Si può essere, domando io, più onesti di così? Ecco qua, tutto quello che aveva rubato al padre, egli lo avrebbe rimesso al figliuolo nascituro. Che colpa ha lui se io poi, ingrato e sconoscente, andai a guastargli le uova nel paniere? Due no, due no per bacco. Gli parvero troppi forse perché, avendo già Roberto, come ho detto, contratto un matrimonio vantaggioso, stimò che non lo avesse danneggiato tanto da dover rendere anche per lui. In conclusione, si vede che, capitato in mezzo a così brava gente, tutto il male lo avevo fatto io e dovevo dunque scontarlo. Mi ricusai dapprima sdegnosamente. Poi, per le preghiere di mia madre, che già vedeva la rovina della nostra casa e sperava che io potessi in qualche modo salvarmi sposando la nipote di quel suo nemico, cedetti e sposai. Mi pendeva tremenda sul capo l'ira di Marianna Dondi, vedova pescatore. Fine del capitolo quarto.